Capitolo 2. Il principe di Castelforte prese la parola e ciò che disse su Corinna trasse l'attenzione di tutta l'adunanza. Egli era uomo di 50 anni che aveva nei suoi discorsi e nel suo aspetto molto contegno e dignità. La sua età e la sicurezza che si era data Lord Nelville che gli fosse semplicemente amico di Corinna gli ispirarono un puro interesse per il ritratto che gli fece di lei. Osvaldo, senza tali motivi di sicurezza, si sarebbe sentito fin da allora capace di un movimento confuso di gelosia. Il principe di Castelforte lesse alcune parole in prosa, senza pretensione, ma singolarmente proprie, per far conoscere Corinna. Egli indicò sul principio il merito particolare delle sue opere. Disse che questo merito consisteva in parte nello studio profondo che aveva fatto della letteratura straniera. Sapeva ella riunire al più alto grado l'immaginazione, i quadri, la vita brillante del mezzogiorno, quella conoscenza e quell'osservazione del cuore umano che sembra l'attributo dei paesi dove gli oggetti esteriori risvegliano minore interesse. Egli vantò la grazia e la giovialità di Corinna, quella giovialità che non dipende dai motteggi o dalle derisioni, ma che deriva soltanto dalla vivacità dello spirito e dalla freschezza dell'immaginazione. Tentò di lodare la sua sensibilità, ma si poteva facilmente congetturare che un rammarico personale si mischiava in ciò che diceva. Si lagnò delle difficoltà a cui era soggetta una donna sublime per rinvenire l'oggetto del quale si è fatto un'immagine ideale, un'immagine rivestita di tutti i doni che il cuore e il genio possono desiderare. Si compiacque, nonostante, di dipingere la sensibilità appassionata che ispirava la poesia di Corinna e l'arte che possedeva di far risaltare delle consonanze interessantissime tra le bellezze della natura e le impressioni più intime dell'anima. Egli rilevò l'originalità delle espressioni di Corinna, di quelle espressioni che nascevano tutte dal suo carattere e dalla sua maniera di sentire, senza che nessun miscuglio di affettazione potesse alterare mai un genere di vezzi non solo naturali ma anche involontari. Parlò poi della sua eloquenza come di una forza onnipossente che doveva rapire quelli che l'ascoltavano, a proporzione che essi avessero più di spirito e di vera sensibilità. Corinna, egli disse, è senza dubbio la donna più celebre del nostro paese e nonostante ciò i suoi amici soli possono dipingerla, poiché le qualità dell'anima, quando sono vere, hanno bisogno sempre di essere indovinate. Lo splendore, ugualmente che l'oscurità, può impedire di ravvisarle. Se qualche simpatia non viene in aiuto per sviscerarle, si estese quindi sul suo talento di improvvisare, che in nulla somigliava a ciò che si è convenuto di chiamare con tal nome in Italia. Non bisogna attribuirlo solamente, egli continuò, alla fecondità del suo spirito, ma anche alla commozione profonda che eccitano in lei tutti i pensieri generosi. Ella non può pronunciare parola che li rammenti senza che quella inesauribile sorgente di sentimenti e di idee, vale a dire l'entusiasmo, non l'animi e non la ispiri. Il principe di Castelforte fece comprendere pure l'incanto di uno stile sempre puro e sempre armonioso. La poesia di Corinna, soggiunse, è una melodia intellettuale che può da sola esprimere l'attrattiva delle impressioni, le più passeggere e le più delicate. Esaltò in seguito la conversazione di Corinna. Si capiva che ne aveva gustate le delizie, la immaginazione e la semplicità, la giustezza e l'elevazione, la forza e la dolcezza si accoppiano, diceva, in una stessa persona, per variare ad ogni istante tutti i piaceri dello spirito. Le si può applicare quel leggiadro verso di Petrarca, il parlar che nell'anima si sente. E io le suppongo qualche cosa di quella grazia tanto vantata, di quell'incanto orientale che gli antichi attribuivano a Cleopatra. I luoghi che ho percorso con lei, proseguì il principe di Castelforte, la musica che abbiamo sentito insieme, i quadri che ella mi ha fatto vedere, i libri che mi ha fatto comprendere, Compongono l'universo della mia immaginazione. In tutti questi obiettivi vi è una scintilla della sua vita e se mi abbisognasse di esistere lontano da lei, io vorrei almeno attorniarmene nella certezza in cui sarei di non trovare in parte quella traccia di fuoco, quella traccia finalmente di lei che ella vi ha lasciato. Sì, egli continuò. E in quel punto i suoi occhi caddero a caso sopra Osvaldo. Mirate, Corinna, se potete passare i vostri giorni in sua compagnia, se quella doppia esistenza che ella vi darà può esservi assicurata per lungo tempo, ma non la mirate se siete condannato a lasciarla. Voi cerchereste, finché vivreste, quell'anima creatrice che divideva con voi e moltiplicava i vostri sentimenti e i vostri pensieri e non la trovereste già mai. Osvaldo palpitò a queste parole. I suoi occhi si fissarono su Corinna, che le ascoltava con interesse, non solo figlio dell'amor proprio, ma che dipendeva da sentimenti più amabili e più commoventi. Il principe di Castelforte riprese il suo discorso, che gli aveva fatto sospendere un istante di tenerezza. Parlò del talento di Corinna per la pittura, per la musica, per la declamazione, il ballo, disse che in tutti questi talenti si scorgeva sempre Corinna, che non si obbligava a una tale maniera, a una tale regola, ma che esprimeva in diversi linguaggi la stessa potenza di immaginazione, lo stesso incantesimo per le belle arti sotto le varie forme. Io non mi lusingo, però, disse nel terminare il principe, di aver potuto dipingere una persona di cui è impossibile averne idea quando non si è mai sentita, ma la sua presenza è per noi in Roma come uno dei benefici del nostro cielo brillante e della nostra natura ispirata. Corinna è il vincolo dei suoi amici tra loro, ella è la molla e l'interesse della nostra vita. Noi contiamo sulla sua bontà, noi siamo superbi del suo genio, noi diciamo ai forestieri: guardatela, ella è l'immagine della nostra bella Italia, ella è ciò che noi saremmo senza l'ignoranza, l'invidia, la discordia e l'indolenza alle quali ci ha condannata la nostra sorte. Noi ci compiacciamo a contemplarla come un'ammirabile produzione del nostro clima, delle nostre belle arti, come una rampolla del passato, come una profezia dell'avvenire. E quando gli stranieri insultano questo paese, da dove sono usciti i lumi che hanno illustrato l'Europa, quando essi non hanno pietà dei nostri torti che nascono dalle nostre sventure, noi diciamo loro: guardate Corinna. Sì, noi seguiremo le sue vestigia, noi saremo uomini come ella è donna. Se gli uomini potessero, come le donne, crearsi un mondo nel loro proprio cuore e se il nostro genio, necessariamente dipendente dalle relazioni sociali e dalle circostanze esteriori, potesse infiammarsi tutto intero alla sola fiaccola della poesia. Nel momento in cui il principe di Castelforte cessò di parlare, si fecero sentire unanimi applausi e benché vi fosse stato nel terminare del suo discorso un biasimo indiretto dello stato attuale degli italiani, tutti i magnati lo approvarono. Tant'è vero che si trova in Italia quella sorta di liberalità che non guida a cambiare le istituzioni, ma che fa perdonare negli spiriti sublimi un'opposizione tranquilla ai pregiudizi esistenti. La reputazione del principe di Castelforte era grandissima in Roma. Egli parlava con rara sagacia ed era questo un pregio notevole in un paese dove l'ingegno compare più nella condotta che nei discorsi. Non aveva negli affari l'abilità che distingue sovente gli italiani, ma si appagava nel pensare e non temeva la fatica della meditazione. Gli avventurosi abitanti del Mezzogiorno si disimpegnano qualche volta da questa fatica e si lusingano di ottenere tutto con l'immaginazione, come i loro fecondi terreni danno dei frutti senza cultura e col solo aiuto del favore celeste. Capitolo terzo. Corinna si alzò quando il principe di Castelforte finì di parlare. Ella lo ringraziò con inclinazione della testa, tanto nobile e tanto dolce che vi si scorgeva simultaneamente e la modestia e la gioia, ben naturale per essere stata lodata secondo il suo cuore. L'usanza vuole che il poeta, coronato in Campidoglio, improvvisi o reciti dei versi prima di ricevere sulla sua fronte i lauri che gli sono destinati. Corinna si fece recare la sua lira, strumento di sua scelta che somigliava molto all'arpa, ma che era tuttavia più antico per la forma e più semplice nelle consonanze. Nell'accordarla, ella fu presa subito da grande sentimento di timidezza, di modo che domandò con voce tremante l'argomento che doveva prendere di mira. La gloria e la felicità dell'Italia, si udì rispondere intorno a lei all'unanimità. Sì, riprese lei di già mossa, di già sostenuta dal suo talento, la gloria e la felicità dell'Italia. E sentendosi animata dall'amore del suo paese, ella cantò versi pieni d'incanto e dei quali la prosa non può dare che un'idea molto imperfetta. Corinna cantò i suoi versi e fu interrotta per alcuni momenti dagli applausi più impetuosi. Il solo Osvaldo non prese parte alcuna ai fragorosi trasporti che la circondavano. Aveva appoggiata la testa a una mano e da quell'istante non l'aveva più rialzata. Corinna lo osservò e ben presto dalle sue fattezze e dal colore dei suoi capelli, dalle sue vesti, dalla sua statura alta e finalmente da tutti i suoi modi lo riconobbe per un inglese. L'abito a lutto e la sua fisionomia piena di tristezza la scossero. I suoi sguardi fissi in quell'istante su di lei parevano diretti a farle dolci rimproveri. Ella indovinò i pensieri che l'occupavano e si persuase della necessità di soddisfarlo parlando della felicità con minore sicurezza e consacrando alla morte alcuni versi in mezzo a un apparato festivo. Con questa mira, con questo scopo, ripigliò dunque la sua lira, fece ritornare il silenzio in tutta l'adunanza coi commoventi e prolungati suoni del suo strumento e ricominciò a comporre. Osvaldo fu talmente rapito da queste ultime terzine che gli espresse la sua ammirazione con le più vive testimonianze. E questa volta i trasporti degli italiani non eguagliarono i suoi. Infatti la seconda improvvisazione di Corinna era più destinata a lui che ai romani. La maggior parte degli italiani nel leggere i versi ha una specie di canto monotono chiamato cantilena che distrugge ogni interesse. È inutile che le parole siano diverse, l'impressione è sempre la stessa, poiché l'accento, che è anche più intimo delle parole, non varia quasi. Ma Corinna recitava con diversità di toni che non distruggeva l'incanto sostenuto dell'armonia. Erano, per dir così, ariette differenti, accompagnate dal celeste strumento. Il suono della voce, commovente e sensibile di Corinna, facendo gustare la lingua italiana così pomposa e sonora, produsse in Osvaldo un'impressione nuova. La prosodia inglese è uniforme e velata, le sue bellezze naturali sono tutte malinconiche, le nubi hanno formato i suoi colori e il rumore dei flutti la sua modulazione, ma quando le parole italiane, brillanti come giorno festivo, rimbombanti come quegli strumenti della vittoria che si sono paragonati allo scarlatto tra i colori, quando queste parole, dipinte pur tutte della gioia che un bel clima sparge sopra ogni cuore, sono pronunciate da voce delicata e interessante, il loro splendore addolcito e la loro forza riconcentrata fanno provare tenerezza, ugualmente viva e inaspettata. Capitolo 4. Il senatore prese la corona di mirto e di alloro che doveva collocare sulla testa di Corinna. Ella sciolse il fazzoletto che le cingeva la fronte e tutti i suoi capelli caddero inanellati sulle sue spalle. Ella si avanzò con la testa nuda e con gli sguardi animati da sentimento di piacere che non cercava di dissimulare. Si mise di nuovo in ginocchio per ricevere la corona, ma ella compariva meno turbata e tremante della prima volta. Aveva parlato, aveva piena la sua anima dei pensieri più nobili, l'entusiasmo vinceva la timidezza. Ella non era più donna timorosa, ma sacerdotessa ispirata che si consacrava con gioia al culto del genio. Quando fu situata la corona sulla testa di Corinna, Si fecero sentire tutti gli strumenti e suonarono quelle arie trionfali che esaltano l'anima in maniera così potente e così sublime. Lo strepito dei timballi e delle trombe agitò nuovamente Corinna. I suoi occhi si riempirono di lacrime. Ella si assise un istante e si coprì il viso col suo fazzoletto. Osvaldo, vivamente commosso, uscì dalla folla e fece alcuni passi per parlarle, ma lo trattenne una invincibile irrisoluzione. Corinna lo guardò per qualche tempo, cauta tuttavia, perché non osservasse che gli era l'oggetto della sua attenzione. Ma allorquando il principe di Castelforte venne a porgerle la mano per accompagnarla dal Campidoglio al suo cocchio, ella si lasciò condurre con distrazione e volse indietro la testa più volte, con diversi pretesti, per rivedere Osvaldo. Egli la seguì e nel momento in cui scendeva la scala circondata dal suo corteggio, fece un movimento indietro per adocchiarlo ancora. Quel moto fece cadere la sua corona. Osvaldo si affrettò a raccoglierla e le disse, restituendogliela, alcune parole in italiano, le quali significavano che gli umili mortali mettevano ai piedi degli dèi la corona che non ardivano di porre sulle loro teste. Corinna ringraziò Lord Nelvil in inglese con quel puro accento nazionale, con quel puro accento isolano che non può essere imitato quasi mai sul continente. Quale fu mai la sorpresa di Osvaldo nell'ascoltarla? Rimase sulle prime immobile al suo posto e, sentendosi turbato, si appoggiò a uno dei leoni di basalto che sono ai piedi della scala del Campidoglio. Corinna lo considerò di nuovo, vivamente commossa per la sua agitazione, ma si mosse quindi verso il suo cocchio e tutta la folla sparì molto tempo prima che Osvaldo avesse recuperato la sua forza e la sua presenza di spirito. Corinna fino allora lo aveva incantato come la più vezzosa delle straniere, come una delle meraviglie del paese che voleva scorrere, ma quell'accento inglese gli risvegliava tutte le memorie della sua patria. Quell'accento naturalizzava per lui tutti i vezzi di Corinna. Era ella inglese? Aveva ella passato molti anni della sua vita in Inghilterra? Egli non sapeva indovinarlo, ma era impossibile che il solo studio le avesse insegnato a parlare in quella guisa. Faceva duopo che Corinna e Lord Nelvil fossero vissuti nello stesso paese. Chissà che le loro famiglie non fossero state insieme in relazione. Forse anche egli l'aveva veduta nella sua infanzia. Si ha spesse volte nel cuore non so quale immagine innata di ciò che si ama, la quale potrebbe persuaderci che si conosce un oggetto che si vede per la prima volta. Osvaldo aveva molte prevenzioni contro le italiane, le credeva amorose ma volubili, ma incapaci di provare affezioni profonde e durevoli. Quel che aveva detto Corinna al Campidoglio gli aveva già ispirato di loro un'idea affatto diversa. Che sarebbe stato dunque se poteva in uno stesso tempo ritrovare le rimembranze della sua patria, ricevere per mezzo della immaginazione nuova vita e rinascere nell'avvenire senza romperla col passato. In mezzo a tali pensieri, Osvaldo si trovò sul ponte Sant'Angelo che conduce al castello del medesimo nome, o piuttosto al sepolcro di Adriano, di cui si è fatta una fortezza. Il silenzio del luogo, le pallide onde del Tevere, i raggi della luna che illuminavano le statue su tutto il ponte e ne facevano come altrettante ombre bianche che miravano fissamente scorrere le acque e il tempo, oramai a loro cose straniere, tutti questi oggetti lo ricondussero alle sue idee abituali. Egli si mise la mano sul petto e sentì il ritratto di suo padre che portava sempre addosso. Lo prese in mano per considerarlo e l'istante di felicità che aveva provato e la causa di questa felicità non gli rammentavano che troppo il sentimento che l'aveva reso un tempo così colpevole verso suo padre. Questa riflessione rinnovò i suoi rimorsi verso il padre. Libro terzo, capitolo 1. Il conte d'Erfeuil aveva assistito alla festa del Campidoglio. Andò il giorno dopo in casa di Lord Nelvil e gli disse: «Mio caro Osvaldo, volete voi che vi conduca questa sera da Corinna?» «Come?» lo interruppe Osvaldo vivamente. «La conoscereste voi, forse?» «No», rispose il conte d'Erfeuil, Ma una persona cotanto celebre si compiace sempre del desiderio che si ha di vederla e io le ho scritto stamattina per ottenere il permesso di farle una visita questa sera in vostra compagnia. Io avrei bramato, rispose Osvaldo, facendosi rosso, che non mi aveste in tale occasione nominato senza il mio consenso. Oh no, doveste anzi essermi riconoscente, rispose il conte d'Erfeuil, di avervi risparmiato le più noiose formalità. Invece di andare da un ambasciatore che vi avrebbe fatto introdurre in casa di Corinna, io vi presento direttamente a lei. Voi mi presentate ugualmente e noi saremo ricevuti benissimo, entrambi. Io non spero tanto, riprese Lord Nelvil, e temo senza dubbio, con ragione, che questa vostra domanda precipitata non sia dispiaciuta a Corinna. Niente affatto, ve lo assicuro, disse il conte d'Erfeuil. Per certe cose ella ha troppo spirito e la sua risposta è cortesissima. Come? Ella vi ha risposto? Domandò Lord Nelvil. E che vi ha dunque detto, mio caro conte? Ah, mio caro conte, rispose ridendo il signor d'Erfeuil, voi ripigliate dunque la vostra calma dopo che sapete che Corinna mi ha risposto, eh? Ma in conclusione io vi amo lo stesso e tutto è perdonato. Vi confesserò dunque modestamente che nel mio biglietto io avevo parlato più di me che di voi e che nella sua risposta mi sembra che la vi nomini il primo, ma io non sono mai geloso dei miei amici. Certamente, ripigliò Lord Nelvil, io credo che né voi né io possiamo lusingarci di piacere a Corinna. E quanto a me, tutto ciò che desidero consiste nel godere qualche volta nella società di una persona così sorprendente. Ci vedremo dunque questa sera, giacché avete fissato così. Voi verrete con me, disse il conte d'Erfeuil. Oh, sì, bene, rispose Lord Nelvil con un imbarazzo vivissimo. Perché dunque, continuò il conte d'Erfeuil, vi siete lagnato tanto di quello che ho fatto? Voi finite da dove ho cominciato. Ma conveniva bene di lasciarvi l'onore di essere più riservato di me, purché voi, nonostante nulla, vi perdeste. Propriamente Corinna, una persona che incanta. Ella ha dello spirito e della grazia. Io non ho compreso bene ciò che diceva perché parlava italiano, ma a vederla scommetterei che ella sa eccellentemente il francese. Ne giudicheremo questa sera. Ella conduce una vita singolare, ricca, giovane, libera, senza che si possa sapere con certezza se abbia o no degli amanti. Sembra certo, tuttavia, che presentemente non dia la preferenza ad alcuno. Del resto, egli aggiunse, può essere che ella non abbia incontrato in questo paese uomo degno di lei, e questo non mi farebbe meraviglia. Il conte d'Erfeuil continuò ancora qualche tempo a discorrere così, senza che Lord Nelvil lo interrompesse. Egli non diceva nulla che fosse precisamente sconveniente, ma urtava sempre i sentimenti delicati di Osvaldo, parlando con troppa forza o con troppa leggerezza di ciò che lo interessava. Vi sono delle circospezioni che lo spirito anche e l'uso del mondo non insegnano e che, trascurate, feriscono il cuore, benché non si manchi all'urbanità la più perfetta. Lord Nelvil fu agitatissimo tutto il giorno pensando alla visita della sera, ma per quanto gli fu possibile, allontanò le riflessioni che lo turbavano e si sforzò di persuadersi che poteva esservi del piacere in un sentimento senza che questo sentimento decidesse del destino della vita. Falsa sicurezza. L'anima non riceve alcun piacere da ciò che essa medesima riconosce come passeggero. Lord Nelvil e il conte d'Erfeuil si portarono infine da Corinna. La sua casa era situata in Trastevere, un po' al di là del Castel Sant'Angelo. La veduta del Tevere abbelliva questa abitazione, ornata nell'interno con la più perfetta eleganza. La sala era decorata di gessi delle migliori statue dell'Italia, della Niobe, dell'Laocoonte, della Venere Medicea, del gladiatore moribondo, e nel gabinetto dove stava Corinna si vedevano strumenti di musica, libri, mobili semplici ma comodi e solamente disposti all'oggetto di rendere la conversazione più fruibile e il circolo più ristretto. Non era ancora Corinna in questo suo gabinetto allorché giunse Osvaldo. E mentre la aspettava, egli passeggiava ansiosamente nel suo appartamento e vi osservava, a parte un miscuglio felice di tutto ciò che vi è di più gradevole nelle tre nazioni francese, inglese e italiana: il gusto della società, l'amore delle lettere e il sentimento delle belle arti. Corinna finalmente comparve. Era vestita senza alcuna ricercatezza, ma sempre in maniera pittoresca. Aveva i capelli ornati di camei antichi e sul collo una collana di corallo. La sua pulizia era nobile e per niente affettata. Nel vederla in tal guisa familiarmente in mezzo al cerchio dei suoi amici, si trovava in lei la divinità del Campidoglio. Benché fosse in tutto perfettamente semplice e naturale, ella salutò di primo lancio il conte d'Erfeuil guardando Osvaldo e quindi, come se si fosse pentita di questa specie di doppiezza, avanzò verso Osvaldo e si poté rilevare che nel chiamarlo Lord Nelville sembrava produrre con tal nome su di lei un effetto singolare. Ella lo ripeté due volte con voce agitata, come se le rammentasse delle interessanti memorie. Finalmente, ella disse in italiano a Lord Nelville alcune parole piene di grazia sulla gentilezza che le aveva dimostrato il giorno innanzi raccogliendo la sua corona. Osvaldo le rispose procurando di esprimerle l'ammirazione che gli aveva ispirato e si lagnò con dolcezza del perché ella non gli parlasse inglese. «Vi sono io forse, soggiunse, più straniero di ieri?» «No, sicuramente no», gli rispose Corinna. «Ma quando una ha parlato, come ho fatto io per molti anni, due o tre lingue diverse, una al pari dell'altra, è ispirata da sentimenti che si debbono esprimere». «Senza dubbio», rispose Osvaldo, «l'inglese è il vostro linguaggio naturale, quello che parlate ai vostri amici, quello...» «Io sono italiana», interruppe Corinna. «Perdonatemi, Lord, ma mi pare di scorgere in voi quell'orgoglio nazionale che caratterizza sovente i nostri compatrioti. In questo paese noi siamo più modesti, non siamo né contenti di noi come i francesi, né superbi di noi come gli inglesi. Ci basta di ottenere per parte degli stranieri un po' di indulgenza». Quando conoscerete gli italiani, voi vedrete che hanno nel loro carattere alcuni lineamenti dell'antica grandezza. Io vi parlerò qualche volta in inglese, ma non sempre. L'italiano, mio caro, io ho molto sofferto, continuò sospirando, per vivere in Italia. Il conte d'Erfeuil fece dei rimproveri amabili a Corinna perché lo poneva affatto in oblio, esprimendosi in lingue che egli non intendeva. «Bella Corinna», le disse, «di grazia parlate francese, voi ne siete veramente degna». Corinna sorrise a questo complimento e si mise a parlare francese con la maggior purezza e facilità, ma con l'accento inglese. Lord Nelville e il conte d'Erfeuil se ne meravigliarono egualmente, ma il conte d'Erfeuil, il quale credeva che si potesse dire tutto purché si dicesse con grazia e che si immaginava consistesse l'inciviltà nella forma e non nella sostanza, domandò direttamente a Corinna la ragione di questa singolarità. Ella mostrò nelle prime un po' di turbamento a questa improvvisa interrogazione, poi ripigliando coraggio disse al conte d'Erfeuil: «Verosimilmente, signore, deriva ciò dall'aver imparato la lingua francese da un inglese». Il conte d'Erfeuil allora rinnovò le sue domande ridendo e Corinna si imbarazzò sempre di più e alla fine gli disse: «Da 4 anni, signore, che mi sono fissata in Roma, nessuno dei miei amici, nessuno di quelli che, io ne sono sicura, si interessano molto di me, mi ha interrogato mai sul mio destino. Hanno capito subito che mi era penoso il parlarne». Queste parole posero termine alle ricerche del conte d'Erfeuil, ma Corinna temette di averlo offeso e siccome si dava l'aria di essere legato all'estremo con Lord Nelville, ella temette ancor più, senza volerne cercare il motivo, che egli non parlasse di lei svantaggiosamente a suo amico. In conseguenza si rimise a prendere ogni cura per piacergli. Giunse in quell'istante il principe Castelforte con molti romani amici suoi e di Corinna. Erano tutti uomini di spirito amabile e gaio, estremamente affettuosi nei loro modi di trattare e così facilmente animati dalla conversazione degli altri che si provava vivo piacere a parlare con loro. Intanto essi sentivano vivamente ciò che meritava di essere sentito. L'indolenza degli italiani li porta a non fare mostra in società e neppure spesse volte altrove di tutto lo spirito che hanno. La maggior parte tra loro non coltiva nemmeno nella solitudine le facoltà intellettuali che la natura ha dato loro, ma essi godono con trasporto di ciò che viene loro senza fatica. Corinna aveva molto brio e molto spirito, scorgeva la ridicolezza con la sagacità di un francese e la dipingeva con l'immaginazione di un'italiana, ma mescolava in tutto un sentimento di bontà. Nulla si vedeva mai in lei di premeditato né di ostile, poiché in ogni cosa è la freddezza che offende e l'immaginazione, al contrario, ha quasi sempre della bonarietà. Osvaldo trovava Corinna piena di grazia e di grazia che gli era tutta nuova. Una grande e terribile circostanza della sua vita era collegata con la memoria di una donna francese amabile e spiritosa all'estremo, ma Corinna in nulla le rassomigliava. La sua conversazione era un miscuglio di tutti i generi di spirito. Vi era l'entusiasmo per le belle arti e la conoscenza del mondo, la finezza delle idee, la profondità dei sentimenti. In breve, tu scorgevi in lei tutti i vezzi della vivacità e della prontezza, senza che per questo i suoi pensieri fossero imperfetti e le sue riflessioni superficiali. Osvaldo era contemporaneamente sorpreso e incantato, inquieto e rapito. Egli non comprendeva come una sola persona potesse riunire insieme tutto ciò che possedeva Corinna. Domandava a se stesso se il legame di tante qualità quasi opposte tra loro fosse in conseguenza o superiorità, e se dipendeva dal sentire tutto o dal dimenticare tutto successivamente, il passare, come la faceva quasi nello stesso istante, dalla malinconia all'ilarità, dalla sublimità dei pensieri alla grazia, dalla conversazione, la più sorprendente per le cognizioni e per le idee, alla civetteria di donna che cerca di piacere e vuol fare degli schiavi. Vi era però in quella civetteria così perfetta nobiltà che ella imponeva rispetto al pari della più austera riservatezza.